L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale in un certo senso torniamo a dar voce ai guardiani della Terra, perché la puntata di oggi parte dal documentario intitolato La finestra sul porcile, diario hitchcockiano di un ecologista. È un film di Salvo Manzone, che è anche il protagonista di questa vicenda, perché proprio a lui capita di tornare a Palermo e trovarsi sotto casa una discarica abusiva, che diventa poi la sua ossessione. La sorveglia giorno e notte alla ricerca del colpevole, ma alla fine si appassiona alla causa della economia circolare. Ma ci racconterà tutto proprio Salvo Manzone. Ogni mattina questo è quello che vedo quando guardo il mondo. E questo è il mondo. E questo sono io. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, mi sono svegliato con una discarica abusiva sotto casa. Gli anni passano, la discarica cresce e la vita va avanti come se una montagna di immondizia sotto la finestra fosse una cosa quasi normale. Che cosa succede nella finestra sul porcile? Allora, il film parte da un evento, diciamo, personale, che è quello della scoperta di una discarica abusiva sotto la mia finestra. E in realtà quello diventa l'occasione per parlare di un soggetto su cui lavoro da molto tempo, che è quello dei rifiuti, e come problema ecologico, cioè non solo come problema spesse volte percepito di decoro urbano, ma sui rifiuti come elemento, diciamo, macroscopico del, come si dice nel film, dell'insuccesso della nostra economia. Cioè, la nostra economia lineare non funziona bene perché produce rifiuti. E quindi questi rifiuti diventano, diciamo, evidenti e macroscopici quando ce li si ritrova sotto la finestra. E quindi a partire da là mi interrogo sulla questione, diciamo, intanto delle discariche abusive a Palermo, poi della raccolta differenziata sempre nella mia città, e fino poi a, diciamo, scoprire la soluzione della strategia Zero Waste, rifiuti zero, e quindi anche visitare Capannori, che è una delle città, diciamo, leader in questo tipo di strategia, che l'ha messa in piedi ormai da più di 10 anni e che è arrivata all'80% di raccolta differenziata. E quindi parto da un problema per arrivare a una soluzione. Gli anni passano, la discarica cresce e la vita va avanti come se una montagna di immondizia sotto la finestra fosse una cosa quasi normale. Finché un giorno ho pensato di fare qualcosa. È più o meno così che 7 anni fa ho deciso di fare un film su come provai a ripulire il mondo a partire dal mio porcile. C'è un discorso di economia lineare, un discorso di economia circolare, che è quello alla quale ambiamo, ma con un obiettivo ancora più alto, che è quello del rifiuto zero, che quindi, cioè, si punta non in alto, in altissimo, direi, in questo film, a partire da una città come Palermo, che invece ha un problema serissimo, che è cominciare a affrontare l'ordinario. Sì, effettivamente, diciamo, si mescolano in questo film, come nella vita, diversi livelli. Si parte semplicemente dall'ordinario, cioè è chiaro che avere almeno una raccolta ed diciamo, una pulizia nelle strade sarebbe il minimo, chiaramente. Ma certe volte in realtà quello che trovo interessante, appunto, funziona nel mio film, è che a partire invece da un trauma, che è quello della discarica sotto casa, qualcuno, in questo caso io, perché mi metto in scena come personaggio del film, può prendere coscienza dei problemi che invece molto spesso ci sono, non sono alla nostra vista immediata. Quindi quello dei rifiuti molto spesso è un problema che viene percepito solo parzialmente dalla maggior parte delle persone, perché semplicemente c'è il rifiuto, come dice la parola stessa, è qualcosa che noi rimuoviamo. E quindi non ci appare più nella loro qualità e quantità. mentre il fatto di averlo, diciamo, di avere questa non piacevole presenza costante fa capire che questi rifiuti esistono, cioè è che semplicemente noi ce li nascondiamo perché li trasportiamo da qualche altra parte. E i rifiuti zero è in un certo senso sì qualcosa di che dal nome un po' estremo, però semplicemente è diciamo un'altra maniera di approcciarsi all'economia circolare. L'economia diventa circolare nel momento in cui non produce più rifiuti, vuol dire che in pratica sia soprattutto a livello di materia, perché per l'energia è un po' più complicato, si dovrebbe teoricamente chiudere il cerchio e non produrre dei rifiuti. In realtà poi i rifiuti zero non tende a... cioè è solo un goal, uno scopo. Non è molto alto, come cioè, chiaramente a Capannori, penso che sia stata la partecipazione anche di Rossana Ercolini, si tende... si sono raggiunti livelli altissimi, che non è facile, no? Però una piccola parte di questo cerchio si può cominciare a chiudere anche nelle città, cominciando a raccoglierli, differenziarli, mandarli nel posto corretto. Cosa fa un cittadino però quando si trova questa, no? Che vive questa esperienza della discarica sotto casa? Lì com'è andata poi? Ma lì è andata così così, devo dire, purtroppo. Diciamo che... E quello che racconto anche nel film è quello che cerco da cittadino di fare, cioè di contattare la circoscrizione, il comune, l'AMIA, cioè la società, la municipalizzata che si occupa dei rifiuti, con in realtà scarsi risultati. Perché in questo caso la discarica era, diciamo, tra virgolette, delle più difficili da risolvere, perché si trova in un'area privata, quindi teoricamente è il proprietario dell'area che dovrebbe occuparsene, solo che nello stesso tempo non è lui neanche che mette i rifiuti. Quindi diciamo c'è un concorso di colpe che ingarbuglia la situazione. Quindi c'è ancora questa discarica? Allora, questa discarica è stata parzialmente bonificata diverse volte, però come tutti i problemi che sono solo parzialmente risolti, in realtà non sono veramente risolti. Quindi in pratica, visto che diciamo, il costume locale rimane, il fatto che siano stati solo parzialmente bonificati ha fatto sì che si sia riformata, diciamo, successivamente, magari in forma minore, ma sempre, diciamo, rimane comunque un'area degradata. Come? Non posso per lui chi vede. Ma infatti non si vede dalla strada, per questo c'è bisogno di un sollecito, perché passando dalla strada uno la vede la discarica, c'è il muro. Allora, trovo una parola, se vanno poliziato gli vanno anzi, passiamo da faccio, non vanno qua. Perché la mattina se capita non potevamo scopare, ci potevamo meccare. Ma era questo come ci dà? Sai chi era pigliare qualche malattia? Dicevi che vivi anche per un certo momento in Francia. Sì. Lì l'approccio al tema rifiuti qual è? Infatti il fatto di vivere in Francia infatti mi ha fatto capire quanto può essere interessante la dinamica della mia discarica o certe dinamiche in Italia. In pratica in Italia si pensa che i rifiuti siano gestiti peggio che in Francia. In realtà è il contrario. Si impara sempre qualcosa. Perché? Perché bisogna vedere che cosa si intende per gestire i rifiuti. Se si intende farli sparire dalla vista, allora i francesi sono perfetti, bravissimi. Se si intende una gestione invece intelligente delle risorse che stanno dietro ai rifiuti, allora in un certo senso non dico che l'Italia sia perfetta, siamo molto lontani dalla perfezione, però il fatto che appunto viviamo questi traumi, il trauma dell'emergenza rifiuti in varie città, soprattutto nel meridione, e il trauma delle discariche, il trauma delle discariche abusive in certe città come Palermo, ma piccolo episodio, una signora di Torino alla fine della proiezione mi è venuta a segnalare che c'è una discarica qua a Torino, una discarica abusiva anche qua a Torino. La cosa mi ha molto sorpreso, però fa significare che alla fine comunque queste dinamiche possono crearsi un po' ovunque, nel momento in cui non sappiamo come disfarci di certi oggetti. Quindi tornando al discorso, il fatto che praticamente abbiamo questi rifiuti davanti ci fa capire che, che bisogna trovare una soluzione. Mentre in Francia, diciamo, da decenni la soluzione, tra virgolette, l'hanno trovata ed è quella degli inceneritori. Quindi, diciamo, si è creato un meccanismo che per certuni sembra virtuoso, ma per me non lo è, per cui tutti i rifiuti sono comunque raccolti in maniera efficiente per essere bruciati. Solo che questo circuito diventa un po' perverso, perché gli inceneritori implicano il fatto di produrre rifiuti. Perché siccome è una macchina che deve bruciare e produrre diciamo energia, ma in realtà secondo me ne produce ben poca, deve essere alimentata e quindi non incentiva la prevenzione, cioè la riduzione dei rifiuti, il riciclo e tutte le altre buone pratiche, insomma. Sì, è un'economia circolare molto corta quella, perché tu hai il rifiuto, prendi e bruci, sì. Fine della fiera. Grazie, buon lavoro. Grazie a te. Bene, grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie ovviamente a Salvo Manzone per il tempo che ci ha dedicato. Il documentario, ricordo il titolo, La finestra sul porcile, diario hitchcockiano di un ecologista, da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto, appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.